Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Beh, diciamo che il governo nel panorama politico italiano è una novità, come Sassuolo è una novità nel panorama calcistico. Insomma, Squinzi, che è soddisfatto della legge di stabilità, della manovra del governo, del rinnovamento che sta portando avanti dal punto di vista del presidente di Confindustria, tanto da paragonarlo al Sassuolo, perché il Sassuolo è una squadra che, approdata in Serie A, sta facendo delle buone cose. Da questa metafora poi partiremo per parlare questa sera del proseguo della legge di stabilità, dell'itinerario che sta facendo parlamentare con le varie audizioni, le valutazioni di tecnici, istituzioni, parti sociali. Sembra che arrivino non poche critiche alla legge di stabilità, soprattutto sul taglio della TASI, l'eliminazione anzi diciamo della TASI, e poi anche su la questione del limite dell'uso dei contanti. Anche Banca Italia è intervenuta oggi su questo argomento, dicendo che non è molto opportuno aver alzato il limite a proposito di evasione fiscale. Ne parleremo, entreremo nei dettagli. Poi ci occuperemo anche di quello che ha detto la ministra della funzione pubblica Madia, ha detto i dipendenti che fanno finta di essere presenti, insomma, di timbrare il cartellino in modo imbrogliando, vi ricordate l'assenteismo dei dipendenti di Sanremo, che ha fatto particolarmente clamore, dice vanno licenziati. Cosa ne pensate? Uno direbbe vabbè, una domanda retorica, però dipende dai punti di vista. 349-238-6666 è il numero per i messaggi, come sempre qui effetto note, 349-238-6666, e poi lo sapete che c'è sempre per voi la pagina Facebook di effetto note, lì per voi giorno e notte. Ma soprattutto ci occuperemo dell'inchiesta che prosegue su VatiLeaks, quindi questa nuova fuga di notizie di cui abbiamo parlato già ieri in occasione dei due arresti che ci sono stati. C'era l'avvocata Buongiorno, che era legale di Francesca Ciauchi, una delle due persone arrestate, poi lei è stata rilasciata perché sta collaborando. Stasera però ne parleremo direttamente con Gianluigi Nuzzi, che è l'autore del libro Via Crucis, che raccoglie tutti questi documenti riservati che sono fuggiti, diciamo così, dal Vaticano. Quindi non perdete nemmeno un istante di effetto notte, ci sono molte cose da raccontare, da approfondire. 349-238-6666 per i vostri messaggi, pagina Facebook effetto notte anche lì per le vostre opinioni. Adesso passiamo alla sintesi della giornata. Mafia Capitale, arrivano le prime condanne, riconosciuto il reato di mafia. VatiLeaks 2, l'inchiesta prosegue, nuovi interrogatori, il Papa si dice amareggiato, la Ciauchi si difende, dice non l'ho tradito. Stasera a effetto notte Gianluigi Nuzzi. L'aereo caduto sul Sinai, nuove ombre sull'esplosione dell'aereo russo, un satellite americano ha rilevato un lampo di calore in aria, esclusa l'ipotesi del missile, potrebbe essere una bomba. La legge di stabilità, le regioni sul piede di guerra per i tagli alla sanità, critiche alla manovra anche da Corte dei Conti e Banca Italia. Lotta all'assenteismo, la ministra Madia propone di licenziare gli statali che imbrogliano sui cartellini. Marino contro Renzi, voleva controllare Roma, dice, e se l'è presa. I danni del maltempo al sud, stato di emergenza in Calabria, a Messina manca di nuovo l'acqua. Fontana di Trevi, dopo 17 mesi è finito il restauro, torna l'acqua e c'è una nuova illuminazione. Per il calcio, in campo per la Champions League, la Juventus sul difficile campo del Borussia. Quindi dalle novità che riguardano l'inchiesta su Mafia Capitale, anche di questo poi parleremo in modo più approfondito, sono arrivate le prime quattro condanne a essere condannati con rito abbreviato: Emilio Gammuto, 5 anni e 4 mesi, Raffaele Bracci, Fabio Gaudenzi ed Emanuele Salvatori, tutti a 4 anni. Gammuto e Salvatori erano accusati di corruzione, mentre Bracci e Gaudenzi di usura. E c'è stato il riconoscimento, questa è la cosa importante, della contestazione dell'aggravante mafiosa a questa banda di Carminati e Buzzi. Nel frattempo non si ferma, poi torneremo su questo, nel frattempo non si ferma nemmeno, vi dicevo, l'inchiesta su VatiLeaks 2. Il Papa si è detto amareggiato per la fuga di notizie, una delle due persone arrestate, Monsignor Balda, ha passato la notte in cella in Vaticano, l'altra, la PR invece, Francesca Ciauchi, che vi dicevo, poiché ha cominciato subito a collaborare, è stata subito rilasciata, si difende, dice non l'ho tradito il Papa. Oggi è stata nuovamente interrogata e poi, come vi dicevo, avremo queste anticipazioni di questi documenti riservati direttamente a Gianluigi Nuzzi tra poco. E in una Roma travolta tutte queste inchieste, l'immagine positiva arriva invece dalla Fontana di Trevi. Con un suggestivo gioco di luci, poco dopo il tramonto, l'acqua è tornata a scorrere nella fontana di Trevi, simbolo della dolce vita, oltre che della città eterna. La fontana è stata riconsegnata a romani e turisti dopo un restauro durato 17 mesi, un intervento costato quasi 2 milioni e 200 mila euro che sono stati messi a disposizione dalla casa di moda Fendi. Il monumento ora ha anche una nuova illuminazione, un nuovo impianto idrico. I lavori hanno impegnato 26 restauratori e si sono conclusi in tempi record, 516 giorni contro i 600 previsti, ha sottolineato il sovrintendente capitolino Parisi Presicce. La Maison Fendi ha invece fatto sapere che ora finanzierà il restauro di altre 4 fontane romane, quella del Gianicolo, la fontana del Mosè, il Ninfeo al Pincio e la fontana del Peschiera. Un atto d'amore verso Roma, l'ha definito l'amministratore delegato del gruppo Beccari. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto proprio oggi è stato presentato il piano di sicurezza per il Giubileo, che prevede l'assunzione straordinaria di 2.500 unità delle forze di polizia, nonché l'assegnazione già da questo mese di oltre 1.000 unità di rinforzo agli uffici di Roma. E sentiamo cosa dice il ministro dell'Interno Angelino Alfano. Roma è in questo momento di fronte ad una sfida, ed è la sfida di dimostrare che questo Giubileo avviene grazie e non nonostante la città che lo ospita. Spostiamoci all'estero, si rafforza l'ipotesi dell'attentato dell'aereo russo caduto nelle alture del Sinai. Oggi ci sono state nuove rilevazioni, un satellite americano ha rilevato un lampo di calore in aria. Questo, sostengono gli esperti, significa che è escluso che l'aereo sia stato abbattuto dal missile, ma l'opzione su una possibile bomba rimane aperta. E ritornando sulle notizie italiane, invece siamo alla legge di stabilità, le regioni sul piede di guerra per Italia, la sanità, critica la manovra anche dalla Corte dei Conti e da Banca Italia rispetto alle coperture, ma anche all'eliminazione della TASI, al limite per l'uso dei contanti. E poi ci sarà, Matteo Renzi ha detto che un vertice con le regioni dovrebbe esserci domani a Palazzo Chigi. Poi c'è la ministra Madia che, come vi ho detto, ha proposto di licenziare gli statali che imbrogliano sui cartellini. Su questo argomento potete esprimere le vostre opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure mandando gli sms al 349-238-6666. Per quanto riguarda la politica, c'è anche questa notizia. Marino, che comincia, anzi diciamo prosegue nell'attaccare Renzi dopo le sue dimissioni, dice voleva controllare Roma. Renzi voleva Roma, tutto il suo diretto controllo sotto di sé. Se l'è presa utilizzando il suo doppio ruolo come segretario del partito, dice Marino, ha voluto che i 19 consiglieri del PD si dimettessero, e come premier ha sostituito il sindaco legittimamente eletto con un prefetto che farà capo, come dice la legge, sempre a lui. Così Ignazio Marino scrive questo oggi su Facebook. Passiamo a questo punto al maltempo. Messina in ginocchio, manca nuovamente l'acqua. Dopo l'esercito, la protezione civile. È senza fine l'emergenza idrica a Messina, dove la condotta che da Fiume Freddo porta l'acqua in città si è nuovamente interrotta a causa di una frana che di fermarsi non ne vuole sapere. Messina al momento non è a secco, ma l'afflusso d'acqua potrebbe ridursi di circa il 50%. L'assessore all'urbanistica del comune siciliano, Sergio De Cola, al microfono di Simone Spezia. Abbiamo chiesto a Sicilia Acque di attivare con immediatezza il bypass che era stato realizzato nei giorni scorsi. Al momento in realtà la città ha dei grossi serbatoi di distribuzione. Noi chiediamo a tutti i cittadini di usare l'acqua con moderazione, in modo tale che speriamo di intervenire con questa fonte supplementare. Non si conoscono i tempi precisi per un ritorno alla normalità neanche in Calabria, che ha pagato con 2 vite umane l'ondata di maltempo che ha travolto la regione. Dopo l'uomo di 43 anni travolto dal torrente Taurianova, in mattinata è morto anche il 25enne colpito da un paro della luce a San Roberto nell'Aspromonte, mentre gli operai lavoravano al ripristino della linea elettrica danneggiata. Distrutti dall'alluvione alcuni tratti della statale 106 Ionica e la linea ferrata tra Ferruzzano e Brancaleone, nel pomeriggio la richiesta al governo da parte della giunta regionale della Calabria della dichiarazione dello stato di emergenza. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso per il calcio, la Champions League, c'è in campo la Juventus contro il Borussia, e Giovanni Capuano che ci dice come sta andando. Iniziata da circa mezz'ora, Giovanni? Sì, siamo al 27esimo del primo tempo e non sta andando benissimo, perché la Juventus è sotto 1-0 a Mönchengladbach contro il Borussia, e sotto 1-0 anche meritatamente, anche se in realtà il gol preso al 18esimo da Johnson è nato da un liscio di Chiellini su un tiro cross dalla sinistra. Il difensore centrale della Juventus e della nazionale ha mancato completamente l'intervento alle sue spalle, anche Vrà non è stato perfetto, Johnson si è trovato sul destro un pallone solo davanti a Buffon e non è stato complicato portare in vantaggio i tedeschi, che pochi minuti prima avevano anche colpito l'incrocio dei pali con Dahoud, con un destro in controbalzo da fuori molto bello da una trentina di metri, Buffon battuto, palla che si era stampata sulla traversa. Peccato perché la Juventus era iniziato, aveva iniziato bene, aveva iniziato dopo un paio di minuti con una buona occasione di Evra, poi però piano piano il ritmo dei tedeschi ha preso il sopravvento in mezzo al campo e la Juventus sta facendo fatica anche in questo momento. Un'altra conclusione di Sciacca dalla distanza con Buffon che ha controllato, ma palla che è finita di poco alto sopra la traversa. Juventus che gioca con una formazione inedita, la buona notizia è che rientra Lichtsteiner che era fermo da circa un mese per un'aritmia cardiaca, aveva subito anche un piccolo intervento al cuore, quindi questa è certamente una buona notizia. Davanti ci sono Dybala e Morata, c'è Hernanes trequartista. Questa sera la Juventus potrebbe qualificarsi già alla seconda fase vincendo e con una contemporanea vittoria del Manchester City a Siviglia. Il Manchester sta vincendo 2-1, gol di Sterling e Fernandinho, poi pochi istanti fa il Siviglia ha accorciato le distanze con Tremulinas, però la Juve per il momento il suo non lo sta facendo ed è sotto 1-0 a Mönchengladbach contro il Borussia quando siamo al 28esimo minuto. Grazie Giovanni Capuano, vediamo se poi quando ci aggiorniamo di nuovo è andata un po' meglio per la Juventus. Intanto vedo i vostri messaggi sulla proposta della ministra Madia di licenziare i dipendenti pubblici che timbrano il cartellino, fanno timbrare il cartellino a qualcun altro oppure lo timbrano in mutande come era successo a Sanremo e poi se ne vanno. Io se non lavoro non mangio, par condicio, dice un ascoltatore, chiedo la par condicio. E poi sulla pagina Facebook di Effetto Notte altri messaggi, Federica, certo che anche i parlamentari che fanno i pianisti, quelli che non vanno mai in Parlamento e così via, se si vuole portare la correttezza prima bisogna applicarla in prima persona. Vari messaggi, però tra pochissimo, dopo la viabilità, ritorneremo sulla vicenda Vatileaks 2 e con chi ha raccolto già da tempo documenti riservati. A tra poco. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Tra pochissimo ci sarà Gianluigi Nuzzi, il giornalista d'inchiesta che ha scritto ancora un libro sul Vaticano e in particolare su questi documenti riservati che ha scatenato di nuovo la bufera con Vatileaks 2, ne parleremo tra pochi istanti. Intanto vi ricordo, visto che c'è stata la pausa, visto che nessuno, quasi chi insomma non accende puntualmente la radio alle 21 su Effetto Notte potrebbe aver perso le notizie più importanti, eccole qua. Il Papa sulla nuova Vatileaks dice avanti con determinazione e Francesca Ciauchi si difende, dice non l'ho tradito, oggi sono stati nuovi interrogatori. Dubbi sull'aereo caduto in Sinai, c'è stato un lampo di calore, in cielo trovati dei resti estranei al velivolo, cresce l'ipotesi di un attacco terroristico. La ministra Madia che propone di licenziare gli statali che imbrogliano sui cartellini. Per quanto riguarda la manovra c'è l'ira delle regioni per i tagli alla sanità e poi Banca Italia, Corte dei Conti, anche loro con delle critiche sulla TASI, sulle coperture temporanee. Mafia Capitale, oggi ci sono state le prime condanne e poi Mosca frena su Assad, permanenza non è una questione di principio, sapete che Mosca sostiene il presidente siriano Assad. E poi l'acqua che purtroppo non torna a Messina, emergenza sia a Messina che in Calabria. Torniamo quindi sulla vicenda di Vatileaks 2, ovvero la seconda fuga di notizie, i documenti riservati dal Vaticano a 3 anni da Vatileaks 1, vi ricordate, con Paolo Gabriele, maggiordomo di Benedetto XVI, che era poi stato definito il corvo, che era stato arrestato, condannato e poi graziato. Questa volta, ieri abbiamo parlato di questi due arresti, di Monsignor Lucio Angel Valleio Balda e della PR, della consulente del Vaticano Francesca Ciauchi, che facevano parte della commissione di studio sulle attività economiche e amministrative volute da Papa Bergoglio. Sono stati arrestati perché accusati di aver divulgato informazioni riservate, segrete, legate all'uscita di due libri. Allora saluto a questo proposito Gianluigi Nuzzi. Ciao Gianluigi, grazie di essere buonasera qui. Buonasera a tutti, buonasera, ecco. Gianluigi, che è un giornalista d'inchiesta di razza, dopo Vaticano S.P.A. e Sua Santità, adesso sta per pubblicare proprio tra due giorni, il 5, giusto Gianluigi? Sì, giovedì usciamo. Sì. Esci con Via Crucis ed è il libro che appunto ha creato tanta preoccupazione insieme a quello di Fittipaldi a proposito di questi documenti riservati, perché mi pare che per la prima volta sia stato anche registrato il Papa Bergoglio durante delle conversazioni riservate, Gianluigi. Ci sono i testi di questi incontri, di queste riunioni, che sono molto eloquenti, perché il Papa, il Santo Padre, dice che in Curia in buona sostanza i conti sono fuori controllo e quindi dice che bisogna fare pulizia e chiarezza perché la trasparenza è ancora lontana. E il libro racconta in un viaggio tra chiari scuri l'enorme difficoltà che Papa Bergoglio incontra per fare pulizia in Vaticano, i casi di malversazione, i casi della Fittopoli Vaticana, i soldi che piuttosto che andare alla beneficenza vanno stornati. Sono tante storie drammatiche e poi una parte del libro è dedicata proprio alla battaglia, alla guerra che stiamo facendo al nostro Papa. Quindi Gianluigi Nuzzi, questa via crucis sarebbe quella del Papa che si deve muovere tra mille ostacoli, tra mille ombre, tra mille sabotaggi anche evidentemente. Tu parli di soldi, di affari sporchi, sprechi, privilegi, ricchezze sterminate, poi facevi l'esempio anche di questi fondi per la povertà che invece poi vengono investiti per ammucchiare di conti, investimenti, in altri interessi insomma. No? Vengono utilizzati soprattutto per ripianare i conti in rosso della Curia Romana. Ma sì, mi pare evidente che sia lui che sta compiendo il pontefice, che sta compiendo questa via crucis. E poi sai, questo è un libro inchiesta, è un libro che si basa su fatti veri, non è un libro ovviamente contro la fede, che qualcuno voglia dire, perché la fede per fortuna è un patrimonio personale e quindi fa parte della ricchezza di ciascuno, no? Di averla o non averla. Quindi secondo te però, Gianluigi, chi ha portato fuori questi documenti riservati? Quando si è trattato di Vatilix I, della bufera su Benedetto XVI, si era detto che il corvo, cioè Paolo Gabriele, il suo maggiordomo, in realtà poi c'era dietro evidentemente qualcun altro, non poteva essere stato solo lui, lo aveva fatto per proteggere, cioè per denunciare che cosa tutte le manovre contro di lui. E la stessa spiegazione che viene data anche per questo nuovo caso. Tu naturalmente non dirai chi ti ha dato questi documenti, chiaro, no? Finirei sotto processo disciplinare, giustamente. Le tutele verso le fonti sono ampie e anche previste proprio a tutela della libertà di informazione. Senti, non diresti però, niente neanche... Sì, prego. Singolare che qualche giorno prima che escano dei libri vengano arrestate delle persone, e io questo lo trovo francamente singolare, disarmante, no? Questa inchiesta andava avanti da mesi, guarda caso, proprio con questa sincronica coincidenza, insomma, a me lascia un po' stupito chi risponde a un libro con le manette. Senti, su queste due persone tu non vuoi dire niente, su Monsignor Balda e Francesca Ciauchi non hai nulla da dire? Qualcuno le ha indicate, ritengo che siano alcune delle fonti, dei libri che stanno per uscire, la giustizia farà il suo corso. Noi di certo, parlo come giornalista, io ho il dovere di pubblicare una notizia nel momento in cui la trovo, e qui abbiamo fatto un libro che quindi non è solo una notizia, è proprio una fotografia. Una fotografia drammatica della situazione della Curia che eredita Papa Francesco da Ratzinger. Ed era il motivo per cui Ratzinger, evidentemente preso poi a un certo punto da debolezza, da disperazione, evidentemente da sconforto, si era dimesso. Bergoglio ti sembra più forte o ti sembra comunque accerchiato altrettanto? Bergoglio abbia sicuramente tanti nemici nelle gerarchie e tra gli altri prelati, però dalla parte del suo a tutta l'opinione pubblica, per fortuna. La gran parte, lui è molto amato dal popolo e sopportato da alcuni, amato da pochissimi e non amato da molti all'interno della Curia Romana. Insomma. Quindi è tutta una guerra interna. Se tu dovessi dire una delle cose più gravi che ci sono in questi documenti che tu hai raccolto nel tuo libro Via Crucis. Ma insomma, io quando io immagino i soldi della beneficenza, che solo su 10 euro. Solo 2 finiscono nella disponibilità del Papa, rimango attonito. Quando capisco che ci sono stati quasi 1 miliardo di euro di fondi extracontabili gestiti privatamente, come ha detto il Papa in quelle riunioni, mi chiedo chi abbia gestito e come siano stati gestiti tutti questi soldi. Insomma, ci sono dei grandi flussi di denaro fuori controllo. Io uso due parole che sono le stesse che ha usato Bergoglio in maniera assai saggia. In queste registrazioni, secondo te Gianluigi Nuzzi farà più bene o più male al Papa questo libro, questi documenti che sono fuoriusciti? C'è una ragione di Stato e quindi tutti gridano lo scandalo, perché ovviamente un'emorragia così di documenti all'interno della Santa Sede lascia in molti, come dire, disorientati, no? All'interno di quel piccolo Stato. Io però non devo guardare, io faccio il cronista, non devo guardare se una notizia fa del bene o fa del male a qualcuno, io devo vedere se la notizia è interessante, questa sicuramente lo è, vista l'attenzione anche che c'è su questi argomenti, e quanto poco sappiamo di quel mondo, no? Cioè, conosciamo le nostre chiese, i nostri oratori, e poi lì invece è un grandissimo punto di domanda. Potrebbe essere una spinta ulteriore al processo riformatore del Papa, questo, se lo cogliesse come... Io credo che l'informazione sia uno delle linfe che fanno bene a i paesi democratici. Quella però è una monarchia assoluta, quindi magari le regole sono un po' diverse. Gianluigi Nuzzi, io ti ringrazio, e poi ricordo che tra l'altro questo libro di Gianluigi, Via Crucis, sarà pubblicato contemporaneamente negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, Francia, Svizzera, Austria, Germania, Brasile, Portogallo, Spagna, Sud America, ho dimenticato qualche paese, qualche latitudine, Gianluigi. Forse, però insomma siamo in Italia, pensiamo a casa nostra. Buona uscita e buon proseguimento allora, grazie a Gianluigi, voi, grazie. Nuzzi, ciao Gianluigi. Ora invece, quali documenti riservati ci rivelerà il nostro Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore? Ciao Alberto. Ciao a tutti, buonasera. Hai qualche documento riservato sulla legge di stabilità che noi non conosciamo, ma che vengono man mano criticati da più parti, questi aspetti della legge di stabilità? Corte dei Conti, parte tecnici del Parlamento, no? Ieri. No, diciamo la verità, qui siamo nel massimo della trasparenza, nel tempio della discussione pubblica e istituzionale, perché sono in corso le audizioni delle varie constituency, diciamo così, che girano intorno alla legge di stabilità, e parti sociali e centri di studi, insomma. Ciao, di varie critiche a viso aperto, le vanno a fare in commissione, quindi insomma. Senti, sono un po' di critica, sì, a viso sentiamo aperto. Per esempio, allora, per quanto riguarda le opposizioni, come simbolo in questo momento sentiamo Brunetta di Forza Italia. È un colabrodo. È una partita di giro e di raggiro, l'abbiamo detto fin dall'inizio. Adesso tutti se ne stanno accorgendo. La Corte dei Conti dice che si mette la polvere sotto il tappeto, nel senso che si rinviano i tagli, e quindi i tagli della cattiva spesa pubblica, e quindi si finanzia la riduzione delle tasse in deficit. E questo non può che comportare un appesantimento per gli anni prossimi della tassazione. Quindi altro che manovra espansiva. Questa è una manovra imbroglio. E questo, vabbè, è Brunetta, l'opposizione fa più o meno il suo mestiere. Però proviamo a sentire anche invece Signorini, vice direttore generale di Banca Italia, che cosa ha detto. I limiti all'uso del contante non costituiscono ovviamente un impedimento assoluto alla realizzazione di condotte illecite, specie per il grande riciclaggio, ma introducono un elemento di difficoltà e di controllo sociale che può ostacolare forme minori di criminalità e di evasione. Più che il singolo scambio irregolare di contanti, del resto in sé non facile da individuare e da sanzionare, conta il fatto che l'esistenza di una soglia scoraggia in via generale una circolazione di banconote troppo ampia e quindi tale da poter fornire potenzialmente materia a transazioni illecite. Ritengo quindi che un limite anche basso vada mantenuto. Del resto l'esistenza di effetti macroeconomici della soglia sui consumi non è, fino a questo momento, almeno a mia conoscenza, sorretta da una chiara evidenza empirica. Quindi questo è uno degli aspetti più controversi della legge di stabilità, no, Alberto Rioli, quello del limite sui contanti che è stato rialzato dal governo Renzi a 3.000 euro. E poi c'è la questione anche della TASI, l'abolizione della tassazione sulla proprietà dal punto di vista macroeconomico, ha sempre detto Signorini, sulla base dell'evidenza empirica finora disponibile potrebbe avere effetti circoscritti alle famiglie e soggetti ai vincoli di liquidità. Insomma, per dire, era più utile fare un taglio alle tasse sul lavoro che non quello sulla casa. Sì, effettivamente sì. Per quanto riguarda le soglie, sì, tenere basse le soglie, si tratta di capire qual è il concetto di Banca d'Italia di basso. Effettivamente le soglie sono state portate da 1.000 a 3.000, potremmo considerarle ancora abbastanza basse, insomma, quindi non c'è una certa ambiguità da parte di Banca Italia oggi sul punto, effettivamente, non sembra di aver colto una forma di attacco diretto obiettivamente alla politica del governo. Per quanto riguarda invece la TASI, sì, certo, è una cosa che Banca Italia ha espresso varie volte, che sarebbe molto importante abbattere le tasse sui fattori di produzione, cioè su capitale e lavoro, piuttosto che non sul patrimonio immobiliare, perché è una cosa che hanno in quasi tutti i paesi europei, e invece noi abbiamo bisogno di trovare delle leve di crescita che passano appunto dall'alleggerimento del fisco sulle buste paga e sul costo del lavoro, sostanzialmente, questo è sacrosanto. Per quanto riguarda invece le regioni, Chiamparino dice che sono a rischio sopravvivenza nella loro autonomia per questo sistema di tagli, e poi in particolare si concentra sul settore della sanità. Per quel che riguarda la sanità, prendendo atto positivamente che c'è un aumento comunque del fondo di 1 miliardo, rileviamo però che le esigenze per far fronte alle scadenze contrattuali del comparto, alla necessità di distribuire farmaci salvavita come quelli relativi all'epatite C, il piano vaccinale e i nuovi livelli essenziali di assistenza, le esigenze sono circa il doppio, cioè 1 miliardo in più. Questo Chiamparino, presidente della regione Piemonte e della conferenza delle regioni. Vedo adesso, Alberto Orioli, una agenzia di pochi istanti fa, di una dichiarazione di Renzi, è in corso l'assemblea dei parlamentari del PD, no? Deve uscire un po' il partito, dice: sulla sanità, il sociale e la cultura noi investiamo più di prima. Ma insomma, questo è un po' uno slogan. Effettivamente bisogna dire che i famigerati tagli sulla sanità sono tagli rispetto ad aumenti previsti, quindi a fronte di 3 miliardi di aumenti previsti ne sono stati garantiti solo uno, c'è stato un taglio di 2 miliardi che poi si è rivelato anche un po' più incisivo e che le regioni contestano, ma comunque non stiamo parlando di un taglio rispetto a un 100 che diventa 80, 70 e quant'altro. È un 100 che invece di diventare 130 diventa 120 o 110, ecco, diciamo la verità, stiamo parlando di una minor crescita, quindi non è un vero e proprio taglio. Bisogna anche dire che nell'ubriacatura federalista degli ultimi anni, molti anni, la spesa si è spostata molto sul versante delle regioni e si è spostata molto anche una certa spesa, per così dire, a cura dell'intermediazione politica delle regioni. È lì che bisogna fare i tagli, e chiaramente creando questo cancello nelle uscite, nei trasferimenti da parte dello Stato, Renzi costringe l'istituzione regione a fare i conti con le proprie debolezze, con i propri errori degli anni scorsi, e indubbiamente questa cosa crea malcontento, perché deve incidere nella carne viva delle strutture di costo di quell'ente, e quindi qui la polemica. Però indubbiamente una delle fonti di maggior spreco e di maggior spesa in questo momento sono indubbiamente le regioni. C'è proprio Renzi sulla 7, ti prego, Ignazio, di martedì. Certi addi scenografici evitiamoli, impara da Letta, lui sì che se n'è andato con dignità, ora sta in Polinesia, ha aperto un siringhito sulla spiaggia e vive di ricordi. Poi naturalmente Renzi invitato da Crozza, c'è lì Marino di martedì sulla 7. E ti faccio sentire adesso per chiudere che cosa ha detto la ministra Madia. Poi è evidente che il disonesto e l'evasore, con strumenti potenti che abbiamo, deve essere perseguito. Come è evidente che il dipendente pubblico, ci sono state recenti cronache, che dice che va a lavorare e poi non ci va, deve essere licenziato. No, a proposito dell'assenteismo e di quel fatto veramente clamoroso poi di Sanremo, così dice la ministra Madia, che bisogna licenziare quelli che imbrogliano sui cartellini, sul beggiare, insomma. Beh, francamente mi sembra che questo vada rubricato sotto la voce buonsenso, obiettivamente. Il problema è che oggi questo è molto difficile da fare, anche in presenza di flagranza di reato, di comportamenti devianti. Non è stato possibile licenziare quelli che rubavano le valigie agli aeroporti, non è possibile licenziare chi fa finta di rubare. È abbastanza assurdo questo, effettivamente. E sono cose agghiaccianti, diciamo la verità. Stiamo parlando tutti i giorni di valorizzazione del capitale umano, di produttività e tutto il resto, quindi questi sono episodi che sicuramente vanno sanati. Poi all'interno della macchina complessissima della burocrazia pubblica c'è un problema di dipendenti fannulloni, che sono una percentuale infinitesimale rispetto poi a tutti quelli che lavorano con grande dedizione e abnegazione. E c'è anche un problema poi di controllo da parte della dirigenza, che spesso non c'è, perché quelle situazioni lì probabilmente si conoscevano, e quindi non bisogna foderarsi gli occhi e non guardare anche che c'è probabilmente una responsabilità nella dirigenza che ha tollerato questo tipo di comportamenti, o in certe dirigenze che non dirigono, che passano la giornata a schivare le responsabilità e evitare di prendersi delle responsabilità e di fare delle scelte, perché questo comporta poi degli oneri e magari dei rischi e quant'altro. Ecco, quindi tutto questo andrebbe rimesso un po' in gioco, e l'obiettivo della riforma Madia, ma non solo quello della riforma Madia, quello della riforma Brunetta, era stato in modo conclamato questo. Poi c'è sempre un problema di come si attuano queste riforme. Non a caso la riforma Madia è l'unica che ancora non ha i decreti attuativi, i decreti delegati. Forse è un caso, non è un caso, perché i decreti delegati sono quelli che devono essere messi a punto proprio dalle burocrazie pubbliche, forse, come dire, è il tacchino che non vuole finire sulla tavola a Natale, diciamo la verità. Grazie Alberto Rioli. Grazie a voi. Grazie, mi ha messo fame con questo tacchino. Intanto vedo tra i vostri messaggi, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia al 349-238-6666, c'è Marco Martini da Firenze che dice: ci vuole lo scanner ottico delle mani, evitare le frodi con il badge. Poi Clotilde: per i parlamentari, per gli eurodeputati assenteisti, è previsto anche per loro il licenziamento? E poi un altro ascoltatore: ma mi chiedo, c'è da chiederlo se bisogna licenziarli subito, senza nemmeno liquidazione? Hanno rubato soldi a noi, le tasse aumenteranno sempre di più. E poi leggerò dopo, adesso dobbiamo prenderci assolutamente una pausa di ricreazione e poi parleremo delle prime condanne nell'inchiesta di Mafia Capitale. Logisticamente, Modul Block, dal più piccolo magazzino semplice o automatico al più complesso centro logistico, vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi, e voi con i vostri messaggi. Avete appena sentito poco fa Gianluigi Nuzzi, autore di uno dei due libri, il libro Scandalo, diciamo così, che ha fatto riemergere un Vatilix 2 sulle fughe di notizie che ci sono state ancora dal Vaticano, raccolte in questo libro Via Crucis, appunto, di Gianluigi Nuzzi, che avete sentito qui poco fa a Effetto Notte. Adesso passeremo a un'altra questione che riguarda sempre in qualche modo la capitale, insomma, il suo perimetro. Parleremo di mafia capitale tra poco con Raffaella Calandra. Intanto leggevo ancora molti dei vostri messaggi che stanno arrivando a proposito della proposta della ministra Madia di licenziare i dipendenti pubblici che imbrogliano con i cartellini. Federica dice: certo che anche i parlamentari fanno i pianisti. Questo l'avevo già letto. Maurizio: licenziare un impiegato o impiegata statale impossibile, categorie super protette, pensare che con 20 anni vanno o andavano in pensione, i nostri operai devono scoppiare dando molto di più e poi niente pensione. Naturalmente questo non dovete prendere come un attacco ai dipendenti pubblici, ma a coloro che appunto sono paragonabili allo scandalo di Sanremo di pochi giorni fa. Velander dice: vanno anche denunciati per truffa loro e i superiori che non li controllano. Io che sono operaio, se non sono a lavoro se ne accorgono dopo 5 minuti, chiaramente. Adesso vi ricordo le notizie più importanti della giornata. Mafia Capitale, arrivano le prime condanne, ne parleremo tra pochissimo, e poi Vatilix 2, l'inchiesta prosegue, nuovi interrogatori, il Papa si dice amareggiato e la Ciauchi si difende: non l'ho tradito, dice, avete sentito Gianluigi Nuzzi qua, autore di Via Crucis, che sta per essere pubblicato, uscirà il 5 novembre. L'aereo caduto sul Sinai, nuove ombre sull'esplosione dell'aereo russo, un satellite americano ha rilevato un lampo di calore in aria, esclusa l'ipotesi del missile, forse è stata una bomba. Legge di stabilità, le regioni sul piede di guerra per i tagli alla sanità, critiche alla manovra anche da Corte dei Conti e Banca Italia. Lotta all'assenteismo, la ministra Madia propone di licenziare gli statali che imbrogliano sui cartellini. Marino contro Renzi, e c'è, tra l'altro l'abbiamo fatto sentire in parte sulla 7, voleva controllare Roma e se l'è presa, dice Marino. I danni del maltempo al sud, stato di emergenza in Calabria e a Messina, manca di nuovo l'acqua. La fontana di Trevi, che almeno è una luce, diciamo, al centro di Roma, così in crisi in questo momento. Poi per il calcio, la Champions League, Juventus sul difficile campo del Borussia, poi ci aggiorneremo sui risultati. Sentiamo solo qualche secondo di Ignazio Marino sulla 7. Popolo, e solo i rappresentanti del popolo possono eventualmente togliergli la maggioranza, ma se lo vogliono fare, lo devono fare spiegandolo, guardandolo negli occhi e guardando negli occhi il popolo, in un'aula che è l'aula del Consiglio Comunale. Non lo si può fare in uno studio di un notaio, perché allora vuol dire Vuol dire che non lo sai spiegare, perché io non solo se non lo so spiegare mi vado a chiudere dentro la stanza di un notaio e non affronto un dibattito pubblico con delle risposte pubbliche. Marino, ancora indignato per come è stato, diciamo, cacciato, diceva: io ho chiesto più volte un confronto in aula. Siamo nella capitale, adesso siamo su Mafia Capitale con Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta. Oggi sono state quindi le prime condanne per Mafia Capitale, ma in realtà il processo, quello grosso, inizia il 5 novembre, no? Se non sbaglio. Esatto, giovedì. Ecco, però oggi queste condanne a cosa sono relative? Ci sono state delle prime condanne perché ci sono stati degli imputati che hanno chiesto il rito immediato e quindi hanno avuto uno sconto di pena, avendo appunto chiesto un rito alternativo. Si tratta appunto di quattro persone che sono state condannate per reati che vanno dai 5 con pene che vanno dai 5 ai 4 anni. La cosa importante però delle condanne di oggi è che il tribunale, o meglio il giudice per udienza preliminare, ha riconosciuto l'aggravante mafiosa ad uno degli imputati, ad Emilio Gammuto, considerato un collaboratore di Salvatore Buzzi, e questo in qualche modo è importante perché anche poi il maxi processo che si apre da giovedì, il processo poi ai big di Mafia Capitale, 46 imputati, quello di cui per mesi abbiamo, tra cui Camminati e Buzzi naturalmente, sono i vertici, diciamo, secondo l'accusa di questa associazione, giocherà tutto proprio su questo, diciamo, sul riconoscimento di quello che la Procura di Roma aveva già definito come una mafia originale e originaria, quindi una realtà criminale nuova che quindi nel processo dovrà essere sotto esame da parte dei giudici. Già nelle sentenze di oggi, appunto queste in rito abbreviato, però ci sono già, possiamo dire, i primi ingredienti del maxi processo che si aprirà giovedì, perché c'è chi appunto come Gammuto è accusato e a questo punto è stato anche condannato di aver favorito la compravendita dei funzionari e i burocrati per far mungere la mucca di Buzzi, per dirla con un'intercettazione di cui tanto abbiamo parlato nei mesi scorsi. Oppure ancora c'è un ex dipendente del Campidoglio, Emanuela Salvatori, che è stata condannata perché avrebbe favorito Buzzi nell'ottenere un finanziamento da 150.000 euro in una delle sue cooperative. Ricordiamo Buzzi, il RAS delle cooperative, che aveva affari nella gestione dei migranti, nel campo nomadi, la gestione dei rifiuti, del verde pubblico. È lo stesso che con l'SMS si augurava un anno pieno di pioggia, emergenze e monnezza, diciamo. Quindi per capire, diciamo, perché quelli erano i settori in cui faceva affari. Ecco, appunto, anche la Salvatori è stata condannata a 4 anni perché avrebbe favorito Buzzi con un appalto importante in cambio dell'assunzione della figlia in una delle sue cooperative. Poi ci sono altri due imputati condannati per usura, in sostanza, aver imposto dei tassi di usura. Quindi questi sono tutti ingredienti classici, diciamo, dell'agire mafioso. In questa prima sentenza in rito abbreviato il giudice le ha ritenuti tali e li ha condannati. Staremo a vedere come saranno, come tutto questo, come l'impianto, l'enorme impianto dell'inchiesta che arriva a dibattimento il 5 novembre e arriva a dibattimento, anche questo è un dato importante, 11 mesi dopo i primi arresti del 2 dicembre del 2014, cioè considerando i tempi italiani si tratta anche di tempi brevi. Ci sono state anche una serie di ordinanze, quindi arresti in più fasi, e poi ci sono anche i tempi tecnici, considerando che ci sono 46 imputati, come in questo caso, alcuni dei quali, a cominciare da Massimo Carminati, è in regime di 41 bis, ex terrorista nero, ex terrorista nero coinvolto nei peggiori misfatti italiani, da delitto Pecorelli ai depistaggi per la strage di Bologna, è in carcere duro, 41 bis, ed è anche questo è stato un tema in queste settimane che precedono appunto l'apertura del dibattimento, perché gli imputati, ecco, Carminati potrà seguire tutto il processo in videoconferenza perché è il carcere duro, ma inizialmente questo limite era stato imposto a tutti gli imputati, quelli che sono arrestati, 18 su 46. Poi c'è stata una protesta molto forte degli avvocati, dei penalisti, giornalisti romani che hanno inizialmente proclamato 4 giorni di sciopero, poi diventati uno solo, che già sarà la udienza del 9 novembre, proprio perché hanno contestato la videoconferenza e un calendario molto serrato di udienze, perché è stato già fissato 4 udienze a settimana. Questa però è, diciamo, quello che ha preceduto, che sta portando all'inizio del dibattimento, che però chiaramente andrà poi nel cuore della sostanza a capire che cos'era. E quindi ci aggiorniamo a giovedì a questo punto. Ci aggiorniamo a giovedì da Roma. Ciao Raffaella Calandra. Ciao, grazie a te. Ci sentiremo da Roma. Adesso invece aggiorniamo chi sta viaggiando un po' in giro per l'Italia. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presento. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Certo, immediatamente, scrive Floriano sulla pagina Facebook di Effetto Notte a proposito della proposta della Madia di licenziare i dipendenti pubblici che timbrano per finta. Insomma, Luigi scrive: scommettiamo che sarà solo una bolla di sapone e tutto resterà come adesso. Stefano dice: per me assolutamente sì e senza possibilità di fare ricorso. Ma adesso vi racconto brevemente le notizie più importanti. Il Papa sulla nuova VatiLeaks dice: avanti con determinazione. Intanto la consulente Chao Ki, dopo essere stata arrestata e rilasciata, si difende, dice: non ho tradito. E ci sono stati oggi nuovi interrogatori, dubbi sull'aereo caduto in Sina, il lampo di calore in cielo, trovati dei resti estranei a questo velivolo, e cresce l'ipotesi del terrorismo. E poi c'è la proposta della ministra Madia di licenziare gli statali che imbrogliano sui cartellini. Per la manovra, la legislabilità, l'ira delle regioni Italia e Sanità, e per l'IMU e TASI ci sono anche le critiche di Banca Italia e della Corte dei Conti. Europa 24 notte. Adesso parliamo delle minacce del governo libico. L'Europa riconosca il governo islamista di Tripoli o manderemo migliaia di migranti. Questa è la minaccia arrivata dal portavoce del Parlamento della capitale libica, il quale ha precisato che la Libia spende decine di milioni di euro per bloccare la traversata del Mediterraneo, rinchiudendo i migranti in centri di detenzione o rimpatriandoli. Parole che arrivano proprio durante la visita dell'alta rappresentante per la politica estera Federica Mogherini in Egitto, occasione per fare il punto sulla situazione in tutta la regione. Ma quanto è concreta questa minaccia per l'Europa? Alessandra Schepisi lo ha chiesto ad Arturo Varvelli, ricercatore dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. No, non è una minaccia consistente, non è una minaccia reale, perché in realtà il governo di Tripoli non ha il controllo dello spazio che dichiara sotto controllo, e non penso naturalmente che sia nell'interesse del governo di Tripoli a questo punto, in questo momento così delicato, agire in maniera così dissennata. Anzi, mi pare che sia il contrario, che questo rientri tutto in una dialettica di pressioni sulle parti. L'Unione Europea e la comunità occidentale stanno esercitando parecchie pressioni sui due, diciamo, contendenti, il Parlamento di Tobruk e quello di Tripoli, perché firmino l'accordo, e queste sono tutte risposte di fatto a queste pressioni internazionali. E la crisi in Libia, secondo lei, è dunque un punto di svolta, come ha detto il ministro degli esteri Gentiloni? Io rimango molto scettico, perché di punti di svolta ne abbiamo visti purtroppo e annunciati parecchi da un anno a questa parte ormai, perché è un anno che le trattative vanno avanti e i punti di svolta sembravano dietro l'angolo ogni settimana. In ogni caso, certamente appare più probabile di qualche settimana fa, proprio per le pressioni internazionali che sono notevolmente aumentate, e proprio per il fatto che finalmente siano Bernardino León sia stato in grado di annunciare, facendo uscire e dichiarando i nomi del governo. E a questo punto si è passato a discutere più che sui contenuti dell'accordo, sui nomi, che è un passaggio importante, rilevante. In ogni caso, però, anche se le due parti accettassero un accordo e un governo unitario, ci sarebbero certamente dei miglioramenti, ma la situazione della Libia non sarebbe assolutamente risolta. Da lì si aprirebbero ulteriori capitoli, cioè su come garantire questo accordo, su come garantirlo da, diciamo, attori spoiler che potrebbero in ogni caso, in una situazione anarchica o semi-anarchica quale in quella del paese, mettere a repentaglio questo accordo. Quindi diciamo che sarebbe un primo passo verso la stabilizzazione, che rimarrebbe comunque molto difficile e che durerebbe certamente molti anni. Questi episodi, come la profanazione del cimitero italiano a Tripoli, le accuse di Tobruk che 3 navi militari italiani sarebbero entrate in acque libiche, come le vede? Solo provocazioni, come ha detto il ministro degli esteri Gentiloni? Beh, sono provocazioni che sono una risposta, diciamo, a quelle che loro percepiscono come delle provocazioni, cioè delle pressioni internazionali, perché i due organi, Tripoli e Tobruk, firmino l'accordo. Quindi è una, cioè c'è un sentimento anti-italiano? No, in Libia in particolare in questo momento non penso che ci sia un sentimento anti-italiano. L'Italia è un partner storico della Libia ormai da diverso periodo, e la nostra diplomazia si è spesa più di tutti per un accordo generale, quindi in realtà queste sono risposte alle pressioni internazionali. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Mi sembra ovvio, scrive un ascoltatore, ascoltatrice, che chi sbaglia quanto nel privato, nel pubblico va mandato via. Mi sembra strano che per una tale barlume di saggezza ci volesse la Madia. Ancora arrivano i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666 a proposito della proposta della Madia di licenziare i dipendenti pubblici che timbrano imbrogliando, insomma, sui cartellini. E poi un altro ascoltatore: vanno licenziati dirigenti che non si accorgono che i dipendenti timbrano e poi addio. Ma adesso ritorniamo però con Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore. Ciao Carlo. Ciao Roberta, ciao, buonasera. A parlare sempre di VatiLeaks, c'è stato poco fa Carlo Gianluigi Nuzzi, questa sera, a parlare appunto del suo libro. Era un po' incerto perché domani doveva tenere la conferenza stampa, però poi mi ha detto di sì, quindi era all'inizio della trasmissione, e ha parlato del contenuto, insomma, in sintesi a proposito di questi documenti riservati. Parlano di soldi, di affari sporchi, di sprechi, di ricchezze sterminate, di offerte, diceva, per la beneficenza che non vengono spese per i più poveri ma ammucchiate in costi e investimenti. Quindi è come un sabotaggio, una guerra che continua, quella stessa guerra che faceva la curia all'interno contro Benedetto XVI, che continua a maggior ragione con Papa Bergoglio, il Papa considerato riformatore, no? Sì, diciamo che però io non solo conosco il contenuto dei libri, a parte le anticipazioni che sono uscite oggi, e Nuzzi che insomma ha fatto molte uscite televisive, quindi insomma ormai credo l'abbia più o meno raccontato tutto, però diciamo ci sono tanti fatti, credo raccontati in entrambi i libri, perché poi c'è anche un altro in uscita, che raccontano alcune malversazioni o presunte o vere, diciamo così, di cui è costellata, diciamo, la Chiesa nel suo insieme. Io non credo, cioè, se viene gestito male un conto corrente, non lo vedo come un attacco alla Chiesa, vedo semplicemente c'è un prete presunto o un monsignore imbroglione. Quindi, diciamo così, gli attacchi alla Chiesa intesi proprio come una volontà di attacco alle riforme, eccetera, secondo me sono altri, nel senso sono qualcosa di più strutturale. E forse si mettono in fila tanti fatti, diciamo, riprovevoli, questo sì. Senti, ma diceva, adesso farei sentire proprio un passaggio breve di tutta la chiacchierata con Nuzzi, sentiamo? Ci sono i testi di questi incontri, di queste riunioni, che sono molto eloquenti, perché il Santo Padre dice che in curia in buona sostanza i conti sono fuori controllo, e quindi dice che bisogna fare pulizia e chiarezza perché la trasparenza è ancora lontana. E il libro racconta, in un viaggio tra chiariscuri, l'enorme difficoltà che Papa Bergoglio incontra per fare pulizia in Vaticano, i casi di malversazione, i casi della Fittopoli Vaticana, i soldi che piuttosto che andare alla beneficenza vanno stornati. Sono tante storie drammatiche, e poi una parte del libro è dedicata proprio alla battaglia, alla guerra che stanno facendo al nostro Papa. Questo è un libro inchiesta, è un libro che si basa su. Ecco, in questo, veri, in questo intendeva Carlo Marroni, cioè lui che vorrebbe fare un po' di pulizia, ma evidentemente c'è un sistema così cronicizzato che è difficile. Tra l'altro, dietro i due cosiddetti corvi, presunti corvi, no, Monsignor Balda e Francesca Ciauchi, anche in questo caso ci sarà anche qualcun altro, come nel caso di Paolo Gabriele 3 anni fa, lui era solo il più piccolo. Nel caso di Paolo Gabriele non è stato mai accertato che ci fosse qualcun altro ufficialmente, a parte un informatico che però era una figura minore. E diciamo, è questa l'ombra, almeno a mio giudizio, sul precedente processo, cioè che non è stata mai accertata nessuna complicità. E lì, nel caso di 3 anni e mezzo fa, mi sembra strano che un uomo da solo accatastasse 95 scatoloni, documenti riservati del Papa, per tenerseli lì e guardarsi la sera a casa. Lì sì che, in questo caso, anche oggi la magistratura vaticana ha sentito dei laici, non sappiamo chi, e quindi sta cercando eventuali altre complicità. su questa vicenda specifica, diciamo così, Nursi nel clip che hai fatto sentire un attimo fa dice due cose diverse. Ci sono tanti casi di cattiva gestione e questi, diciamo così, accadono secondo me ovunque. Non va però bene, un po' non più va gravi, bene, lì, no? Un po' più gravi. Diciamo così, comunque su uomini, diciamo così, cioè secondo me se lo fanno in un ministero italiano è grave altrettanto che lo farlo in Vaticano. Diciamo che te, Roberto, dici rubare il nome di Dio e il nome del popolo è diverso. Forse sì, non lo so, però diciamo secondo me è grave in entrambi i casi. Va bene. Carlo Maroni, io ti ringrazio, senti la sigla che tra poco mi si apre la botola sotto la sedia. Ti saluto e ti ringrazio, Carlo Maroni. Prossimi aggiornamenti, allora. Ciao Carlo. Ciao ciao. Ci sentiamo alle 22.